24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Eh sì, cari italiani, cari ascoltatori, 6:33 minuti, lo sparo che avete sentito è quello che ieri ha gettato nel panico Roma, e non solo Roma, l'Italia, quando Luigi Preiti, 49 anni, disoccupato, partito dalla Calabria, armato, è andato a Palazzo Chigi, di fronte a Palazzo Chigi, ha aperto il fuoco. Volevo uccidere un politico. Loro hanno tutto, si mangiano tutto, mentre io a 50 anni non ho niente e ho perso lavoro e devo vivere con i miei genitori. Cari italiani, partiamo da qui, sono le 6:33 minuti, riparte una settimana di 24 mattino e siamo pronti ad aprire il nostro Parlamento. Ebbene sì, sulla Serranda Nicole Minetti è qua. Offre il caffè. E come dire, lo iniziamo magari non con la solita verve, non col solito modo di scherzare. Qui c'è poco da scherzare, eh. Ho già letto i giornali per tutti voi. Spari e paura nel giorno del governo per il Corriere. Volevo uccidere i politici, così titola Repubblica. Il Sole 24 Ore ha anche un numero speciale. Spari a Palazzo Chigi mentre il governo giura. Il clima lo dicevamo già nei giorni scorsi, era difficile. E voglio salutare Alessandro Giglioli, buongiorno, caporedattore dell'Espresso. Buongiorno, buongiorno a tutti. E il suo piovo norane. Voglio salutare anche Bimbo Alieno, buongiorno, ben ritrovato Bimbo Alieno, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io l'avevo detto che il clima, d'altronde non è che bisognava essere dei geni per scoprire, no Alessandro, che il clima fosse il clima di tensione, anche solo banalmente dal termometro molto molto strano della nostra segreteria telefonica, sai quanti messaggi di puro odio arrivano. Poi si dice, ma sì, ma la gente si sfoga, la gente dice queste cose, poi dopo non fa niente, no? E a me questa frase urta molto, quella che è il titolo di molti giornali: volevo uccidere un politico. Questo è il titolo di apertura di molti quotidiani. Dato di fatto è questo da cui partire, Alessandro. Dunque, scusami, ma io sento la linea un po' interrotta. Comunque non so che cosa vogliamo dire con questo. Vogliamo dire che mi colpisce molto, ci colpisce, ma a me, devo dire la verità, e non vorrei fare il solito polemico, ma a me colpisce di più lo spaventoso coro unanime compatto di utilizzo di questo episodio, che evidentemente di più è dovuto a una situazione sociale drammatica in cui l'Italia si trova, utilizzato fondamentalmente per compattare, per giustificare, per rafforzare, per irrobustire il governo che è nato ieri. Ah, vabbè, ma questo è abbastanza. Vabbè, ma questo è abbastanza ovvio, ma ne parliamo delle reazioni politiche. Certo, moriremo democristiani. L'episodio in sé è un episodio di cronaca nera molto, molto triste, determinato. Come dire, è la schiuma di una situazione sociale drammatica. Voi che ne pensate, cari ascoltatori? Io do il numero anche per i vostri messaggi: 349-238-6666. Sì, è la spia di un qualcosa che cova di drammatico, però io non vorrei fare come la Presidente della Camera Laura Boldrini, che ieri l'ha giustificato un po' così in un tweet, ma insomma è il segno della crisi, la crisi che... Ho capito, ma non è che c'è la crisi, siccome c'è la crisi. No, ma per carità di Dio, ma scusami, ma credo che siamo tutti adulti vaccinati abbastanza grandi per capire la distinzione fra la giustificazione e la eziologia, no? Cioè la causa, siamo tutti, ogni individuo è responsabile delle sue azioni, quindi un individuo che spara, evidentemente, specialmente a dei lavoratori come i carabinieri, è un individuo, non sembra che siamo tutti abbastanza adulti e grandi da poter dire, fare un'analisi senza accusarci di giustificare quello, di giustificare, ma chi giustifica niente? Ma siamo impazziti, nessuno giustifica niente. Ma però perché te? Io quello che vedo è una situazione sociale drammatica, in un paese allo stremo, è inutile che ci pigliamo per il sedere. In un paese in cui ci sono milioni di persone socialmente, economicamente allo stremo, ci sono persone che persone che reagiscono così. Tra l'altro, Bimbo Alieno mi ha molto colpito che faccia parte, almeno il profilo, l'identikit di questa persona, 49 anni, 50 anni, quindi sui 50 anni, e tutti fanno notare quella classe di italiani, molti dei quali hanno perso il posto di lavoro, alcuni si trovano già forse nella fase degli esodati o forse un po' troppo presto come età, ma comunque sono quella generazione che, avendo perso il lavoro, poi riqualificarla, come si fa a riqualificarla in questo momento? Sono quelli che stanno soffrendo di più, quelli che non trovano il lavoro, l'hanno perso e si trovano in questa sacca di... come definirla, Bimbaglio? Di inutilità, si sentono. In quell'area certamente non sono esodati, perché gli esodati sono quelli un po' più avanti, certo. prossimi alla pensione, e quindi a 50 troppo presto sicuramente, però sì, è quell'area anagrafica, diciamo così, che purtroppo, se esce dal mondo del lavoro, è molto molto più difficile che possa rientrarvici, perché non ha né da spendere, diciamo, né un'età e quindi una disponibilità di tipo economico, cioè accettare situazioni contrattuali non eccezionali, né essere fresco di studio. Sì, certo, una possibilità di riqualificarsi. Tra l'altro, poi con adesso l'età che avanza e che si sposta, no, ti senti totalmente nel pieno delle forze produttive, no? Dici, ma porca miseria, ho 45, 49, 50 anni, potrei spaccare oggi il mondo, no? E invece ti trovi in quella fase magari più difficile dal punto di vista del lavoro. Comunque, che ne dite di questa? Giusto, Alessandro, perché ovviamente c'è la strumentalizzazione, le polemiche. Per esempio, c'ho la prima del giornale, ecco qui, così ti voglio mettere di buon umore. Il grilletto, chi le spara e chi spara? Il grilletto, ovviamente, no? Si coglie abbastanza, Alessandro, l'accusa al Movimento 5 Stelle, quelli che alzano i toni. Io ti ho parlato così il giornale? Il giornale, sì. Ma penso dovrebbero un po' vergognarsi. Dici? Dovrebbero un po' vergognarsi, perché mi rifiuto di strumentalizzare un episodio del genere per dire che è colpa della politica che ha portato l'Italia in condizioni... così drammatiche, che è colpa di chi ha governato per 20 anni questo paese, che ha prima negato la crisi e poi dopo guarda, veramente, vabbè, ho capito, passiamo. Bimbo Alieno, tu che ne pensi? Ma io non voglio strumentalizzare il gesto di un disperato dicendo che è colpa di Berlusconi. No, strumentalizzare no. Ho visto che qualcuno lo strumentalizza dicendo che è colpa di Grillo o di Vendola. Sì, mettono dentro anche Travaglio, quelli che sono l'anti, quelli che alimentano l'antipolitica. Allora tu, Bimbalino, che ne pensi? Cioè, al di là del titolo e tutto. Io ho letto qualcosa, ho visto. Si tratta di una persona che comunque ha perso il lavoro nel 2010. Sì. È vittima dei videopoker, quindi è caduto vittima di questa sindrome del gioco, e sì. si è mangiato i risparmi, poi due volte separato, non vedeva più il figlio, ha perso i rapporti familiari, cioè, mi sembra un caso complesso, ecco, trovare un grilletto mi sembra che l'abbia fatto scattare la bomba, diciamo così. Mi sembra appunto fuori luogo, sono d'accordo con te. Certo, c'è anche questa frase shock per la verità, perché in tutto questo ci sono anche persone che magari prima di fare un commento pensassero fino a 400. Per esempio, il consigliere comunale, ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Torino, ora consigliere comunale, Vittorio Bertola, ha detto il vero problema non è che qualcuno spari a Palazzo Chigi, ma che ci sono alcuni milioni di italiani che pensano peccato non abbia fatto secco un ministro. Questo ha detto, ecco, Giglioli. La questione è che forse, cioè, quando succedono queste cose uno si sente in dovere di commentare per forza. Il vero problema che mette in luce Bertola, che conosco come persona seria, tra l'altro è uno dei non moltissimi all'interno del Movimento 5 Stelle, molto aperto al dialogo e pacifico e tutt'altro che stupido, lui sta dicendo una cosa giusta, cioè sta dicendo che il problema da affrontare oggi, se vogliamo essere un pochino come dire, razionali, è l'esistenza di una grossa rabbia sociale, sociale che si... No, e lui non sta giustificando, almeno non voglio non sta giustificando. Per la prima volta questo tweet io non l'avevo letto, ma che ci sia un grosso problema di rabbia sociale che poi si riversa nel giustificare questo signore, e anzi nel dire doveva prendere meglio la mira, eccetera. Cacchio, se è un problema della Madonna questo. Ma lui dice infatti, no, per carità, poi chiamato da, credo, dal Corriere, dice: no, ma io non giustifico nulla, però il dato di fatto è questo, sono sicuro che molti italiani pensano peccato non abbia fatto secco ministro, che è un pensiero terribile. Pomeriggio i commenti, Bertola ha ragione, c'è un sacco di gente che invece di come dire, di preoccuparsi dell'accadimento specifico o delle cause sociali che sono alla base di questo accadimento specifico, o semplicemente di analizzare, e si sono subito buttate nel dire: ah, doveva prendere meglio la mira. Se veramente ci sono un milione di persone o 10 milioni di persone talmente sì, ma è il caso di dirlo, cioè è il caso di segnalarlo. No, ma dico, è il caso di segnalarlo, cioè voglio dire, tanto si sa che è così, cioè voglio dire, la stupidità purtroppo è molto diffusa. Ma non so, vedi, forse la politica invece di strumentalizzare questa cosa per le sue beghe interne, perché questo è quello che succede, o per compattare il governo, avrebbe l'urgenza di provare a mettere le mani nel disagio sociale che si è creato, per evitare il più possibile che altri escano di testa. No, ma questo sicuramente, chissà come lo farà. Adesso ne parleremo col nuovo governo. Sentiamo intanto Beppe Grillo, perché a un certo punto ovviamente tutti guardavano al Movimento 5 Stelle, no? È innegabile che alcune dichiarazioni, insomma, su chi ha utilizzato dei toni un po' più alti, eccetera, per cui si sono sentiti anche sotto accusa in dovere di intervenire. Anche Beppe Grillo è intervenuto nella sua TV, cos'è? La cosa. Allora, c'è stato un attentato ai carabinieri davanti a Palazzo Chigi, quindi io vorrei innanzitutto manifestare la mia solidarietà ai carabinieri, alle forze dell'ordine e ai parenti del carabiniere ferito gravemente. Ci discostiamo da questa onda che spero finisca lì, perché il nostro movimento non è assolutamente violento. La nostra violenza è raccogliere firme ai banchetti, fare referendum, leggi popolari. Quindi piena solidarietà alle forze dell'ordine, alla polizia. Insomma, un Beppe Grillo che ha dovuto intervenire per staccarsi, per appunto dire: non c'entriamo nulla, ci mancherebbe, prendiamo totalmente le distanze da questo episodio. Allora, cosa farà invece il governo Letta? Beh, oggi c'è il discorso e poi la fiducia, ne parleremo tra poco, per parlare delle cose concrete che devono fare. Sempre di IMU, i giornali parlano solo di IMU, ma questo paese farà mai un millimetro in avanti? No, sempre lì all'IMU. Comunque, 24 mattino. Ciao, sono Sergio di Milano. Io faccio autotrasportatore, io sulle strade vedo che qui per fare un lavoro ci mettono 10 anni, in all'estero, in Spagna, per fare 150 chilometri ci hanno messo 1 anno e mezzo con gallerie e tutti i problemi che c'erano. Questa è l'Italia, tutto qua. Siamo senza una lira a Milano, questa Italia sta proprio messa male, e quel ranocchio di Alfano dice che la cosa subito da fare è restituire l'IMU. Milan, come si fa? Io ho l'età del presidente, perciò ho 88 anni, Alessandro, e tutto quello che ho visto e tutto quello che ho provato non l'ho letto, l'ho provato sulla mia pelle. Mi sento come al termine della guerra a Genova, quando tutto era andato in malora, avevamo tutte le case sventrate dalle bombe, non sapevamo, le macerie c'erano da tutte le parti. Ma perché questa gente non prova a capire che le macerie si possono togliere? Si possono e si devono togliere se si vuol fare una strada. Signora Milan, lei che è capostipite della scuola dei Ciocapiatti, a cui voglio aderire anch'io. Io però ho seguito la storia del mio maestro Franco Battiato. E quando ho sentito Enrico Letta che parlava di governo di servizio, mi hanno fatto venire un grande punto interrogativo. Governo di servizio, per andare al servizio, e cioè governo d'eccesso? Io questo volevo sapere, signore Milan, e mi dica come aderire alla sua scuola di giocapiatta. Vabbè, scuola di ciocapiatta, adesso non so se Giglioli, sta roba del ciocapiatta adesso mi è un marchio indelebile che mi ha lanciato Forchiello. Sì, certo, che non so ancora se ha scritto a Squinzi, cioè non so se è arrivata ancora la lettera, pare di no, perché se no sono ancora qua. Io allora, parliamo di questo governo, bimbo alieno, l'IMU, spiegaci quanto costa restituire l'IMU, è davvero la prima priorità, è la priorità da assolutamente perseguire, pare che oggi se Letta non farà nel discorso un accenno sull'IMU, Berlusconi non lo so, si alzerà, se ne andrà, cade tutto il governo. Allora, priorità sicuramente è soltanto politica, nel senso che è stata fatta una promessa molto chiara, un impegno addirittura personale, rivalettevi su di me che risponderò personalmente se non lo faremo. Quindi, come dire, un'esigenza prettamente politica quella di portare a fondo questo discorso. Per quanto riguarda invece il ritorno per i cittadini, allora l'IMU sulla prima casa, sì, certo, vale escludendo le case di lusso, 120 euro in media per famiglia. Quindi se pensiamo di uscire dalla crisi economica restituendo 120 euro o non imponendo in futuro 120 euro per famiglia, un po' pochino, insomma, io credo che sia un progetto un poco ambizioso, ecco, dal punto di vista per affrontare la crisi economica. No, ma è chiaro, però questo è un punto di rimente, come costo per lo Stato invece, lo diciamo già a suo tempo, lo ribadiamo, il costo non è poco, sono 8 miliardi, perché sono 4 di mancato incasso per il 2013 e 4. Più 4 da restituire per il 2012, che vanno trovati, ovviamente vanno trovati, Da un'altra parte, e ci sono soldi forse più urgenti, 1,5 miliardi per la cassa integrazione da rinnovare. Ma sì, ma c'è il cuneo fiscale sul lavoro che permette, voglio c'è dire, la Tares che arriva. Oggi se assumo qualcuno gli devo dare 100 euro netti, vuol dire che io devo, imprenditore, devo spenderne 220-230. Questo perché c'è un peso fiscale, un onere enorme nel momento in cui io vado ad assumere personale che mi disincentiva. Sono piuttosto incentivato a spremere un lavoratore facendogli fare ore e ore di straordinario, magari pagandogliele pure fuori busta. Non è un caso che oggi Giavazzi sul Corriere fa un editoriale dal titolo "Ora ridurre senza indugi le tasse sul lavoro". Ecco, se facessero queste. Però Giglioli, che cos'è questa dell'IMU? Certo, una bandiera che il Popolo della Libertà ha sbandierato a lungo in campagna elettorale, e adesso non è che possono al primo o al secondo consiglio dei ministri calare le braghe e accettare un governo che non faccia questa cosa. E poi sì, ti voglio chiedere anche questo: se secondo te è un governo, come dicono alcuni, di serie B, come quando in Coppa Italia si mettono le riserve, tanto se poi si perde si dice vabbè, ma non erano il Milan, l'Inter, la Juve, erano, no? Sull'IMU c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Bimbolino, che ha fatto un'analisi perfetta. Aggiungerei soltanto che togliere l'IMU vuol dire comunque rivolgersi a un blocco sociale anagrafico, che è quello del 60% di italiani proprietari di casa, per carità è importante, però il grosso del disagio sociale avviene tra chi la casa ahimè non ce l'ha e non ce la potrà mai avere. Pensiamo a tutti quelli che hanno meno di 30 anni, che avendo un lavoro precario, non avendo quindi la possibilità nemmeno di accendere un mutuo in quanto precari, la casa forse la erediteranno dai genitori quando i genitori passeranno a miglior vita, ma sicuramente a tutta la fascia giovanile precaria, flessibile, che è un grosso problema in questo paese, questa cosa del limo non dà una lira, anzi è un po' una presa in giro. Mi ricorda un po', se posso dirlo, quando la Camusso propose di detassare le tredicesime, no? Grande riforma. Posso dirlo, era una puttanata anche quella, perché comunque va bene, importante, diamo dei soldi ai lavoratori dipendenti, ma sì, la prima fascia a cui rivolgersi e per il quale fare qualcosa, cioè, è quella dei precari. Ma è chiaro, invece si trovano sempre delle soluzioni per tirare a campare due mesi, tre mesi, no? E questo è un po' l'Italia, no? No, però voglio farvi sentire questa sul governo, che così ce lo dici, ti introduco anche questa. L'avete sentito ieri il giuramento, la gaffe, del segretario del Quirinale, Marra, perché c'era il microfono aperto, a un certo punto quando doveva girare il ministro, che non so anch'io esattamente come si pronuncia, se Kienge alla francese, Kienge alla congolese, anche se cittadina italiana, no? Neo ministro Kieng o Kiang. E sentite Marra che aveva il microfono aperto, doveva annunciarla e chiede a qualcuno come si pronuncia questa. Questa si leggerà Kieng, vero? Kieng, no? L'onorevole dottoressa Cécile Kyenge, ministro senza portafoglio. Poi Giglioli ha prevalso la. C'è uno che gli ha detto Kyenge, più alla francese, perché Kyenge, Kyenge. Vabbè. Guarda, io non so, io ogni volta che vado al più sgarruppato dei convegni e devo presentare dei nomi. Chiedo le pronunce. Esatto. Chiedo prima la pronuncia per non fare questa figura di palto. Si vede che al Quirinale non sono attrezzati per questo banalissimo accorgimento. Gli fa Kyenge. C'è uno più francese, più affatto che Kyenge. Poi chissà come si pronuncia, magari si pronuncia Kieng, io non lo so, non lo so. Tu lo sai come si pronuncia? No. Io non lo so, però non devo fare la presentazione pubblica al Quirinale. No, infatti. È corretta. Comunque il design non credo che sia un governo di serie B, cioè nel senso che mi sembra molto di più un governo cosmetico, cioè in cui hanno veltronamente messo dentro una quantità di giovani e di donne, perché sono giovani e donne, addirittura hanno messo dentro una signora donna e di colore per cercare di darsi questa legittimazione mediatica di novità. Io abbiamo visto che il coro unanime dei giornali tutti sono stati entusiasti della presenza di donne, no? Sì. Hanno cercato di mettere una toppa mediatica a un governo impresentabile. Poi ha messo la Bonino agli esteri, perché il Quirinale non ci andrà mai. Bimbo Alieno, a te piace questo governo? La Bonino agli esteri l'ha messo perché, se posso dirlo, perché è l'unico luogo in cui fa una politica, banalizziamo un po', fa una politica di destra, sembra lei atlantista, ecco. Israeliana. Sembra un governo pensato per durare forse più di quello che ci aspettiamo. Tra l'altro credo che il vantaggio maggiore che abbia è che in questo momento le aspettative nostre sono vicine allo zero. Quindi qualunque cosa facciano va bene. Sì, nel senso di positivo, in positivo, però, in propositivo. Questo era il senso. Credo che abbiano questo grande vantaggio. E noto per esempio che sono assenti dal governo sia ex DS che ex AN, cioè un governo molto centrista, quel Moriremo Democristiani. Moriremo Democristiani, questo è. E ci seppellirà Andreotti. Però mi dà anche l'idea di essere appunto un governo che pensato perlomeno per provare a durare. Staremo a vedere. Oggi intanto ci sarà la fiducia, voteranno anche tutti quelli del PD. Civati ha detto boh, non lo so, deciderò oggi. Stiamo a vedere. Bimbo Alieno, grazie, così come Alessandro Giglioli e il suo Piovono Rane. Trovate anche Bimbo Alieno così su Twitter. E ci fermiamo? È tempo di giornale radio? Sì, ci ritroviamo dopo per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui a leggere i giornali con voi e per voi, cari italiani che vi siete aggregati solo ora, lo so, i debosciati soprattutto, mentre noi qua con l'alpino Peter Bescapè siamo in onda dalle 6:30, ma comunque accettiamo tutti, anche coloro che salgono sul tram in corsa. E allora siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di politica tra il governo e quello che è successo ieri a Roma con la sparatoria di Luigi Preti, che ha ferito gravemente soprattutto un carabiniere, un altro ferito in maniera meno grave e poi è stato arrestato. E ci saranno con noi l'onorevole Alessandra Moretti del PD, l'onorevole Gianluca Pini della Lega e Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, che sta seguendo tutte le vicende legate a questo attentato. Intanto, che dire, andiamo a sfogliare i quotidiani in edicola. È lunedì 29 aprile, i titoli intanto, il Sole 24 Ore ha una doppia apertura, nel senso che c'è l'edizione del lunedì debiti della pubblica amministrazione, enti locali in affanno, ma c'è anche un'edizione speciale di 8 pagine il cui titolo è Spari a Palazzo Chigi mentre il governo giura. Il Corriere della Sera, spari e paura nel giorno del governo, questo è il titolo di prima pagina. E poi molti quotidiani utilizzano questa frase, che è la frase che ha detto la stessa persona arrestata a Preiti, e che fa molto molto scalpore, messa così e letta in prima pagina. Repubblica, volevo uccidere i politici, questo è il titolo, e così La Stampa, volevo sparare ai politici. Il Secolo XIX, volevo colpire i politici, lo stesso titolo lo troviamo della Stampa sul Messaggero, volevo sparare ai politici. Per l'Unità, sangue nel giorno del governo, il giorno voleva sparare ai ministri, e c'è la foto di Preiti arrestato, faccia a terra. Il Fatto Quotidiano, giuramento e sangue, gli sciacalli subito all'opera, questo è il titolo di prima pagina, mentre Il Giornale è un titolo che farà discutere, perché insomma accusa in maniera manifesta Grillo e Company, il titolo è chi le spara e chi spara, il grilletto, questo in prima pagina del Giornale, dopo mesi di responsabile campagna d'odio da parte di Grillo e Company, arrivano le pallottole, questo il Giornale in prima pagina. Tra poco analizzeremo un po' tutti gli articoli che sono concentrati su questa vicenda di cronaca. Voglio partire da cosa? Beh, parla per la prima volta al Corriere della Sera Domenico Zambetti. Chi è? È l'ex assessore della Lombardia accusato di voto di scambio con l'Andrangheta. Dopo qualche mese di carcere è stato arrestato il 10 ottobre, ora è stato scarcerato. Parla per la prima volta all'intervista di Luigi Ferrarella, la trovate a pagina 25 del Corriere della Sera. Pagai sotto ricatto, temevo per i miei figli, la politica è senza regole. Domenico Zambetti intanto alza il dito contro Formigoni, che dice: è stato il primo ad accusarmi, ma sicuramente nell'amarezza del momento e senza conoscere gli atti, da un garantista come lui mi sarei aspettato un giudizio più cauto. Uno Zambetti che nega alcune cose, per esempio di avere pagato 200.000 euro ai clan. Assolutamente no, io pagai 20.000 euro nel 2011 e il 30.000 euro il 15 marzo sempre dello stesso anno, ma la campagna elettorale non c'entra, furono pagamenti da me subiti, insomma mi arresi al ricatto di Francesco Costantino e Pino D'Agostino. Erano emissari di due cosche, chiede Ferrarella, ma mai io avrei immaginato ciò che ho letto. Lo conobbi Costantino come cognato di un brigadiere in procura e padre di una consigliera comunale di Sedriano, si rese disponibile per la mia campagna elettorale, insomma mi obbligarono a pagare, ci furono anche le lacrime. Ebbene sì, perché la lettera che mi spedirono richiamava la mia origine meridionale, l'affetto che avevo per i figli e i nipoti, diceva che io, non potendo dare loro dei lavori come avevo previsto, come avevano pensato loro, avrei dovuto compensarli con denaro. Ebbi uno scoraggiamento molto forte, forse qualche lacrima mi scappò. C'è questa frase poi di Zambetti che ovviamente fa un po' sobbalzare Luigi Ferrarella, perché lui dice: certo, se avessi denunciato sarei diventato, per come vanno le cose in questo paese, un eroe nazionale, ma i miei familiari che vita avrebbero continuato a fare? Dopo la lettera ho veramente avuto paura per loro, ho molto sofferto prima di decidere di aderire al ricatto. E insomma questa voglia di denunciare proprio non è venuta a Domenico Zambetti. Parla per la prima volta al Corriere della Sera intervistato da Luigi Ferrarella. Vi voglio anche leggere quello che è l'editoriale di Giuliano Ferrara oggi tra lo spassoso, il divertito e l'ironico, l'autoironico, ma anche l'accusatorio, riguardo a quello che Dario Fo qualche giorno fa alla Zanzara ha detto su Brunetta, no? Sapete, prendendolo in giro per la statura, dovesse diventare ministro gli cercherò subito un seggiolino per renderlo all'altezza. Ebbene, oggi Ferrara se la prende proprio con questo modo di fare: grassi, panciuti, obesi, nasuti, snasati, nani e Dario Fo. Questo è il titolo dell'editoriale di Ferrara, che scrive: io sono uno schifosissimo ributtante rinnegato, un anticomunista, uomo pubblico di destra, amico confesso di Berlusconi, nemico del multiculturalismo, dell'aborto, del divorzio e della pillola. passo metà del mio tempo a censurare moderni e postmoderni. Ho intestato il mio account Twitter a Ferrara il Grasso. Il mio nom de plume è un elefante rosso. In aereo chiedo con voce gentile ma stentorea quell'extension della cintura di sicurezza che il personale vorrebbe rifilarmi alla chetichella. Denuncio il mio peso, 140 e passa, come un titolo di nobiltà. Quando mi insultano per strada, la mia risposta preferita è: a morto de fame. Io non sono però Dario Fo, pregio o difetto che lo vogliate considerare. E quindi, dice Ferrara, Berlusconi è stato magico quando si è finto la segretaria di Brunetta, ha risposto a una giornalista di Sky TG24 che era lì a misurare seggiolini, scalette e anche una gomma di rimbalzo per ovviare alla bassa statura del capogruppo PDL alla Camera. Ma anche lui, come me, è un tipo poco raccomandabile. Dario Fo e i suoi amici dovrebbero fare attenzione. La loro è un'antropologia positiva ed egualitaria. Per loro tutti hanno diritto e sempre a un uguale trattamento che ha da essere benevole, se necessario anche eufemistico. Se vogliono scherzare sulla mia mostruosa grassezza o sulla statura di Brunetta, dice Ferrara, si accomodino, ma poi ridano con noi del rapporto tra l'islamico e la donna, accettino le barzellette elegantemente sessiste, ci facciano il piacere di distinguere tra un omosessuale da rispettare e la criticabilissima cultura gay, siano meno impettiti quando parlano dei drammi sociali e personali che stanno dietro le 100 diversità dell'esistenza umana, le ineguaglianze di fatto incancellabili, anche quelle fondate su una diminuzio, sulla riasorte, sul destino dei gruppi e degli individui. E poi c'è modo e modo di esercitare la divina facoltà di ridere, si può essere banali e la battuta sullo sgabellino non è degna del drammaturgo che è Fo, o almeno un poco originali e sorprendenti. Insomma, Giuliano Ferrara, lo schifosissimo, come si autodefinisce lui, che se la prende con le battute antropologiche di Dario Fo su Renato Brunetta. Ora andiamo a sentire la pubblicità del meteo e poi ripartiamo dalla politica che è in commistione con quello che è successo ieri, non solo il governo che ha giurato ma anche l'attentato davanti Palazzo Chigi. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Siamo qui alle 7.33 minuti, allora tuffiamoci nella lettura dei tanti numerosi articoli che trovate sull'attentato che Luigi Preiti ha fatto sparando a due carabinieri, sparando, ferendo anche tra l'altro una donna che passava, una passante, una donna incinta, soprattutto è rimasto ferito gravemente uno dei due carabinieri che rischia di rimanere paralizzato. Voleva uccidere un politico, così ha detto. Comunque la giornata è raccontata nel numero speciale del Sole 24 Ore da Marco Ludovico, ore 11.30, spari e feriti a Palazzo Chigi, il racconto di quello che è successo a un certo punto, pochi istanti prima, il giuramento del governo al Quirinale. Un uomo spara e il dato è che per terra ci sono due carabinieri colpiti dagli spari, il brigadiere Giuseppe Giangrande, 50 anni, il carabiniere scelto Francesco Negri, 30, del battaglione Toscana. Negri subisce una frattura a una gamba, drammatica invece la situazione di Giangrande, giunto in codice rosso al Policlinico Umberto I, un proiettile gli ha perforato la gola e i medici devono diagnosticare una lesione alla colonna vertebrale a livello cervicale. Aveva messo su Facebook mezz'ora prima di questo episodio Giangrande sulla sua bacheca questo messaggio: buona domenica a tutti, oggi grande giornata di sole. Ovviamente il panico subito a Piazza Colonna quando quest'uomo ha sparato, quest'uomo che vedrete fotografato faccia a terra proprio nel momento in cui viene fermato dalle forze dell'ordine, e poi l'interrogatorio. Questa frase, volevo colpire un politico, è una frase che più troverete, come racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere della Sera, poi sarà la nostra ospite, l'inviata del Corriere alle 8.30. Scrive però oggi, racconta le fasi dell'agguato in maniera concitata, piange disperato, all'improvviso si calma e ricomincia a raccontare, poi scoppia di nuovo in lacrime in un alternarsi di stati d'animo che dimostrano la sua alterazione, ma non bastano a chiarire fino in fondo cosa ci sia dietro quegli spari contro i carabinieri in servizio davanti a Palazzo Chigi. Invece Luigi Preiti, attentatore calabrese di 49 anni, il suo gesto lo spiega così: a 50 anni non si può tornare a vivere coi genitori perché non puoi mantenerti, mentre invece i politici stanno bene e se la godono. A loro volevo arrivare, sognavo di fare un gesto eclatante, volevo colpirne uno, ma in fondo non volevo uccidere, ero io che volevo morire. Poi racconta: da 2 settimane che ho cominciato a pensare che lo volevo fare, mi sono esercitato in campagna a sparare perché volevo essere sicuro che la pistola funzionasse. Ecco, uno degli elementi da chiarire è proprio l'arma. Una 7.65 con matricola a brasa che l'uomo aveva con sé, forse tenuto in quella borsa ritrovata per terra dove aveva 9 proiettili non esplosi. Prey ti dice di averla acquistata al mercato clandestino 4 anni fa a Genova, ho preso anche 50 proiettili. Poi racconta le ultime ore, sono partito ieri, il giorno prima di domenica, sabato, col treno da Gioia Tauro, sono arrivato alle 17, sono andato in albergo, zona stazione Termini, all'hotel Concord, lì sono rimasto fino alla mattina e poi appunto quello che ha fatto in Piazza Colonna. E insomma, questo dice quest'uomo che giura di aver preso cocaina nell'ultimo periodo. Tutti raccontano della sua vita anche attraverso alcune interviste, come all'ex moglie Ivana Dan, che viene intervistata da Meo Ponte su Repubblica. Con me suo figlio è sempre stato buono, non riesco a spiegarmi la pazzia di Gino. Così sul Secolo XIX c'è tutto un profilo di Ilario Lombardo a pagina 4 dal titolo Il fallito che faceva lo spaccone, cacciato da 2 mogli, una piccola impresa che fallisce, poi si giocava tutto in scommesse, videopoker e partite a biliardo, e poi insomma la decisione da disperato di fare questo gesto eclatante. Anche sul Messaggero il ritratto che trovate a pagina 6 a firma Nino Cirillo è proprio così: le vite di Gino tra azzardo e disoccupazione. Aveva perso il lavoro con il vizio del gioco, un matrimonio finito, 2 matrimoni finiti, poi il ritorno al sud a vivere dai genitori e poi la decisione di fare questo gesto. Dall'altra parte ci sono tanti ritratti che trovate, il più significativo è quello di Francesco Grignetti sulla Stampa in prima pagina, di soprattutto una delle 2 vittime, quella più grave, Giuseppe Giangrande, che scrive La Stampa molto probabilmente rimarrà paralizzato per questo colpo che lo ha colpito al collo, appunto una lesione vertebrale. Il brigadiere anticasta, vedovo da poco, così Francesco Grignetti in prima pagina della Stampa. Ora che lotta in ospedale, il brigadiere Giuseppe Giangrande, a lui non possiamo che augurargli di vincere la sua battaglia. L'uomo, per come lo raccontano, è un combattente. Infatti, che foto ha scelto per rappresentare se stesso? Il bell'attore Daniel Day-Lewis, vestito da soldato francese che si batte all'ultimo sangue, circondato dai perfidi indiani nell'ultimo dei Moicani. Si sente anche lui uno degli ultimi dei Moicani. L'uomo ha una vita che ha provato ad abbatterlo, eppure Giangrande, come nel romanzo di James Cooper che tanto gli è piaciuto, non si è lasciato piegare. 2 mesi fa gli è morta la moglie dopo una lunga malattia, neanche il tempo di elaborare il lutto, e vestiva di nuovo la divisa nera e gli alamari per muoversi da Prato a Roma coi colleghi del 6° Battaglione Toscana. Vive a Prato, si occupa di ordine pubblico, il che vuol dire tutto e niente, significa che l'arma lo manda dove c'è bisogno. Lasciava a Prato sua figlia e si faceva carico della vita degli altri. E ci sono anche delle foto postate da Facebook, e il racconto di questa vita in prima linea, insomma, finito vittima del gesto folle di Preiti. Ovviamente, come accade in Italia sempre, ci sono le reazioni politiche, lasciano un po' il tempo che trovano, ma anche un po' di squallore, perché subito si strumentalizza questa cosa. Sta di fatto che è così. Intanto le reazioni politiche concrete è, come racconta il Corriere della Sera a pagina 5, che ora saranno potenziate le scorte e le auto blu ai politici. Sarà aumentato il livello di protezione, il ministro, neo ministro all'interno Alfano, ha detto a tutti i suoi colleghi: mi raccomando, niente remore a utilizzare le macchine di servizio e farsi proteggere dalla scorta. Ovviamente il timore del Viminale è che altri Preiti possano in qualche modo agire spinti dalla stessa sacca di disperazione, insomma, che può portare ad altri gesti del genere. Allora, le strumentalizzazioni, il dibattito politico, quello che è successo, beh certo non possiamo non partire dal titolo del giornale, un titolo che fa farà discutere chi le spara e chi spara. Il grilletto, questo è il titolo del giornale che richiama subito ovviamente anche Beppe Grillo, e infatti nel sottotitolo c'è scritto molto chiaramente: dopo mesi di irresponsabile campagna d'odio da parte di Grillo & Company arrivano le pallottole. E beh, è un titolo che mette insieme le due cose, insomma, come dire che sono causate da questo. E poi a pagina 3 il titolo è ancora più chiaro nell'articolo di Maurizio Caverzan: i guru del disprezzo armano i disperati, da Grillo a Travaglio ecco chi alimenta l'ostilità verso la politica, e il qualunquismo è terreno fertile per la violenza. Quindi il giornale indica proprio nome e cognome: Beppe Grillo, Marco Travaglio, ma anche Dario Fo, anche Nichi Vendola e Antonio Di Pietro come le persone che negli ultimi mesi hanno alzato il tenore del linguaggio, dicendo appunto i guru del disprezzo armano i disperati. Certo, le reazioni ci sono. Per esempio, tutti hanno guardato al linguaggio negli ultimi mesi molto molto truce a volte di Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle. Secondo il Corriere della Sera, Maria Antonietta Calabrò: Vendola intanto si difende, non è colpa di chi dissente, è polemica però sull'antipolitica. Ieri Vendola a un certo punto ha twittato questo messaggio: un disperato o pazzo spara ed è tutta colpa di chi dissente, di chi non si piega all'inciucio. Non sentite puzzetta di regime? Così il tweet di Nichi Vendola. Ma gli occhi sono tutti puntati più o meno sul Movimento 5 Stelle. Certo, c'è da dire, non aiuta per esempio un'intervista che l'onorevole del Movimento 5 Stelle Laura Castelli rilascia alla Stampa a pagina 6, tanto che la Stampa la mette in titolo di prima pagina: la deputata che imbarazza Grillo, i gesti di follia, colpa degli inciuci. Così Laura Castelli, che tra l'altro era lì in zona perché stava lavorando in centro a Roma, proprio lavoro politico nel movimento, ho visto il caos, le ambulanze, la gente che scappava. E Andrea Malaguti sulla Stampa le chiede: beh, cosa ne pensa? Beh, certe cose non succedono a caso. Stiamo vivendo un momento storico in cui la politica ha delegittimato la piazza. Non le pare un po' generico? Chiede la Stampa. Allora sarò più specifica. La sintesi di quello che sostengo la possiamo trovare nel discorso di insediamento del presidente Napolitano. Dopo parole di quel genere è ovvio che il cittadino si senta sempre più estraneo alla scelta fatta dal palazzo. Mi faccia capire, se Preiti spara è colpa del presidente? Dico solo, risponde l'onorevole Castelli, che discorsi come quelli del presidente rendono incolmabile la distanza tra i problemi reali delle persone e i comportamenti nel palazzo. Preiti non spara ai carabinieri perché ce l'ha con loro, ma perché vuole sparare ai politici. Lo so che è un discorso duro, ma è un discorso reale. Insomma, questo è sintetizzato nel titolo: i politici hanno delegittimato la piazza, ecco i risultati, colpa degli inciuci di palazzo. Ma così come c'è anche polemica sulle dichiarazioni di Vittorio Bertola, che è il rappresentante del Movimento 5 Stelle del Comune di Torino, è stato anche il candidato sindaco, e che ieri ha detto, meglio ha scritto su Facebook: il vero problema non è che qualcuno vada davanti a Palazzo Chigi e spari durante il giuramento del governo, ma il vero problema è che in questo momento, ne sono assolutamente certo, ci sono alcuni milioni di italiani che pensano: peccato che non abbia fatto secco almeno un ministro. Ecco, questa frase subito fa suscitare la polemica. Ancora tarda sera la frase della polemica campeggiava sul profilo del medico consigliere comunale, ed è questa, e con 400 commenti, non tutti di condanna per la verità. Forse, come si diceva prima, ha fatto un'analisi drammaticamente corretta, cioè è vero che molti italiani pensano così. La polemica c'è perché forse nell'esternarla in maniera così esplicita non era il caso. Comunque le polemiche ci sono, c'è anche l'ira dei grillini sotto accusa: le forze dell'ordine ci votano. Così a pagina 9 del Corriere della Sera Alessandro Trocino racconta come siano proprio gli esponenti del Movimento 5 Stelle un po' sotto attacco, e si ricorda anche questa dichiarazione shock di Bertola, appunto, tanti in Italia si augurano la morte di un ministro. Bertola che poi ha chiarito: ovviamente non auspico che questo accada, ma sono convinto che siano tanti quelli che lo pensano. Anche sul Secolo XIX la bufera sui 5 Stelle è il risultato di certi attacchi, e Repubblica, PDL e Lega accusano Grillo, la replica: noi siamo antiviolenti. E lo so, molti anche via sms mi scrivono al 349-238-6666, mi scrivono: sì, anch'io sono uno di quelli, anch'io vorrei, anch'io, come dice Bertola, mi augurerei che... E lo so, cari italiani, mai detto che l'idiozia non sia una cosa diffusa in Italia, soprattutto in questo tempo, quindi non mi stupisce che in tanti mi scrivano: anch'io, come dice Bertola, sono tra quelli che spero che qualcuno faccia secco un ministro. E vabbè, che dobbiamo fare? C'è spazio per tutti, purtroppo. E allora... che dire, il governo, se voi leggete sulle priorità del governo, ieri ha giurato, oggi c'è la fiducia, pare abbastanza scontata, bisognerà capire che cosa faranno alcuni del PD, Civati ha detto boh, deciderò oggi, però insomma pare abbastanza ovvia e scontata la fiducia sia alla Camera che al Senato. Dopodiché su cosa dovrà lavorare? Su tante cose, ma sui giornali sembra tutto congelato attorno alla fatidica parola di tre lettere, IMU. Ecco, l'IMU. Si parla di questo perché? Perché è il tema sul quale il centrodestra batte molto, cioè vogliamo cancellare subito l'IMU per la prima casa. E tra l'altro il Corriere racconta a pagina 12: Letta taglierà l'IMU sulla prima casa, il piano di riforme e meno austerity. Raccontano Enrico Marro e Alessandro Trocino che, chiuso fino a sera tardi negli uffici di Palazzo Chigi, Letta ha lavorato al testo del discorso del programma che oggi farà alle 15. E parlerà anche dell'IMU, e l'ipotesi è questa, quella di arrivare a una esenzione sulla casa per quasi tutti come tappa di avvicinamento all'abolizione totale, con l'obiettivo di convincere i falchi del Popolo della Libertà. Questo è il tema, infatti tutti i giornali si concentrano su questo. Pagina 5 del Fatto: l'acrobata Letta sospeso sul filo dell'IMU. Il giornale: ridurre l'IMU è possibile, ecco dove trovare i fondi. E tra l'altro sul giornale c'è un editoriale di prima pagina del direttore Alessandro Sallusti proprio su questo. Nessuno si arrenda, via l'IMU, questo è il titolo di Alessandro Sallusti del suo editoriale, e cioè questo è il primo punto da fare. Anche per Repubblica, IMU, ecco il piano del governo, tre ipotesi per avviare i tagli, spunta anche l'idea di una moratoria per il 2013. Il problema è sempre quello, come trovare i fondi per i comuni. Ma insomma si lavora su questo tema. È un punto importante anche per Berlusconi, che racconta Ugo Magri in un retroscena sulla Stampa pagina 11: ignora i pasdaran, Letta rispetterà i patti sull'IMU. È un Berlusconi, chi l'ha incontrato in questi giorni, che racconta Ugo Magri tira dritto, se ne infischia dei falchi, i quali dovranno farsene una ragione. Chi l'ha incontrato nel weekend sostiene che l'uomo è felice delle sue scelte, e cioè avrebbe detto ai suoi: ho dato la parola d'ordine, la mia parola d'onore a Napolitano, quindi non posso fare diversamente. Cioè l'idea che sia nel PD sia nel PDL ci siano dei rappresentanti un po' più duri, che siano un po' scettici e facciano nascere questo e fanno nascere questo governo Letta in maniera non molto convinta. Lo stesso Nicolò Ghedini viene intervistato sul Corriere della Sera, dice: oggi non sarò la fiducia ma solo per un problema di salute mio, e comunque fa capire di non essere molto molto soddisfatto. Lo stesso Renato Brunetta viene intervistato da Roberto Giovannini sulla Stampa e dice: se non ci fosse il rimborso dell'IMU non ci voglio nemmeno pensare. Non votereste la fiducia? Lo abbiamo deciso come PDL. La questione dell'IMU è un punto fondante della nostra partecipazione al governo, è il modo più chiaro e netto per far capire che si esce dall'austerità. E alla domanda: è contento di questo questo esecutivo, ci faccia capire Brunetta, non è che risponde in maniera chiara, dice la sinistra nonostante la sua implosione ha preso tutte le cariche istituzionali, Berlusconi ha accettato tutto puntando solo su una cosa, i contenuti del programma, su questo ci sono ampie rassicurazioni, come dire, o fate quello che noi diciamo nel nostro programma, soprattutto economico, oppure salta tutto, questa la traduco io. Ma guardate che anche a sinistra, per esempio Stefano Fassina, intervistato dal Corriere della Sera da Virginia Piccolillo a pagina 16, dice la situazione non è chiara, nessuno è entusiasta. Ecco come nasce questo governo, con esponenti che dicono non va bene. Stefano Fassina viene intervistato e dice alla domanda anche voleva diventare ministro, dice beh non ho capito perché sono uscito dalla nomina, comunque evidentemente si vuole continuare con la linea Monti, così Stefano Fassina. Che dire? C'è anche la Lega che è scettica un po', è scettica soprattutto per l'uscita del neo ministro all'integrazione Cécile Kyenge, che è anzi, come non sappiamo bene la pronuncia, se Kyenge, come ha fatto una sorta di gaffe il segretario del Quirinale che doveva annunciarla e con i microfoni aperti ha chiesto qualche secondo prima di annunciarla al giuramento a qualcuno, dice come si pronuncia questa? Si pronuncia Kyenge o Kyenge? E gli suggeriscono meglio Kyenge alla francese, e allora poi il segretario ecco il ministro Kyenge, no, però fino a qualche secondo prima non sapeva neanche come si pronunciasse. In ogni caso, cosa non piace alla Lega? Beh, le dichiarazioni del neo ministro all'integrazione che ha fatto riferimento allo ius soli, cioè al diritto di cittadinanza per i nati figli di stranieri in Italia, e quindi l'accelerazione e anche il voler superare la Bossi-Fini. Quindi Maroni dice più difficile il nostro voto, stop sulla cittadinanza agli stranieri. Maroni ha detto i primi due ministri che hanno parlato mi pare non abbiano dato un buon segnale. Ne parleremo anche con l'onorevole Gianluca Pini, che sarà nostro ospite dalle 8:15. In ogni caso, due notizie ancora per chiudere. La prima è di cronaca spassosa, quando l'ho letta sul Corriere della Sera ridevo come un matto. C'è un problemuccio a Milano, in un condominio, è fuggito un boa di 2,5 metri. E si è infilato in un water, nel water della casa del proprietario. Che si fa? Un po' tutti terrorizzati in zona. Il boa fuggito nei tubi del bagno e il panico nel palazzo. Paola D'Amico e Gianni Santucci sul Corriere della Sera, pagina 29. Tornerà fuori? Forse. È quello che il suo padrone si augura. E se alla fine rispunterà, il problema è dove rispunterà? Il dato di fatto è che è successo nella zona ovest di Milano, un proprietario di boa l'ha lasciato per un attimo non custodito e questo si è infilato nel water, 2,5 metri, spunterà, è morto, è vivo, è nelle fogne, no? Come c'era la leggenda degli alligatori delle fogne a New York, no? È vivo. Sta di fatto che si segnalano persone che non si siedono più sulla tavola del cesso da due giorni a Milano. Questo è il dato di fatto. Comunque c'è il boa di 2 metri, state attenti. Vabbè, chiudo con la Gazzetta. Juve, ormai è tuo lo scudetto. La prossima settimana ci sarà lo scudetto per la Juventus, mentre il Milan è sempre al terzo posto. A Firenze ieri eravate un po' contenti, eh? Con calma. Ventiquattro mattino, la politica nel tunnel. Eccoci qua alle 8:17, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, doveva essere il giorno del giuramento, soprattutto del governo Letta, si è trasformato in un giorno di politica, ma anche purtroppo di sangue. L'attentato, questo è il momento dello sparo, che sentite l'attentato in Piazza Colonna, Luigi Preiti, 49 anni, disoccupato, due volte divorziato, uomo che era rimasto senza lavoro, vittima del gioco d'azzardo. e che ha sparato ferendo due carabinieri, uno in modo molto grave, pare che rimarrà paralizzato. Agli inquirenti nell'interrogatorio ha detto: volevo colpire un politico, io a 50 anni non ho più niente, sono costretto a tornare a vivere con i miei genitori, loro si sono mangiati tutto. E questa frase purtroppo è una frase che abbiamo sentito tante volte negli ultimi tempi in bocca a molti italiani, no? Ecco, i politici sono quelli che si sono mangiati tutto. Fa molto effetto sentirlo dire a un inquirente, a un magistrato che lo interroga, a una persona che ha appena sparato all'impazzata. Ci sono anche le polemiche inevitabili. Il giornale, pensate, oggi titola così: il grilletto. Questo è il titolo di prima pagina del giornale. Dopo mesi di irresponsabile campagna d'odio da parte di Grillo e compagni, arrivano le pallottole, insomma, associando quella parte politica all'evento di ieri. In tutto questo c'è un governo che ieri ha giurato, oggi deve incassare la fiducia, e del quale vi chiediamo, italiani, se vi piace, secondo voi durerà oppure no. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Con noi ci sono due esponenti politici: Alessandra Moretti del Partito Democratico, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a voi. Saluto anche l'onorevole Gianluca Pini della Lega, buongiorno onorevole Pini. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Allora, intanto Alessandra Moretti, fa solo effetto a me sentire che quella frase, che è una frase che avrà sentito anche lei, le avranno rimproverato tante volte: ma voi politici sì, avete rubato, voi avete tutto, avete i privilegi eccetera, solo che sentirla adesso in bocca a una persona che ha appena sparato all'impazzata dicendo volevo uccidere dei politici, è un qualcosa che suona in un modo un po' diverso, o no? Ma guardi, io vengo dall'amministrazione locale, quindi di fatto raramente mi sono ritrovata, diciamo, a discutere con cittadini che mi rivolgevano questo tipo di accusa, tra virgolette. Però è anche vero che questa frase è una frase ricorrente, cioè è entrata non solo nel linguaggio comune, ma anche nel pensiero di molti italiani. Del resto la politica negli ultimi anni non ha dato gran prova di sé, e quindi è montata questa forma di come dire, sfiducia nei confronti di una classe dirigente che non ha saputo dare risposte, soprattutto non le ha sapute dare, a mio avviso, per quanto riguarda il lavoro, lo sviluppo, il tema della disoccupazione giovanile, ma anche di chi rimane disoccupato a 50 anni. È un problema drammatico al quale è evidente che non possiamo più rimanere così fermi e in attesa, ma dobbiamo subito, immediatamente, dare risposte efficaci. Su questo si vedrà se il governo Letta nasce proprio con questo intento. Onorevole Pini, chiedendo anche a lei, lei come derubrica il fatto di ieri, il gesto di isolato di un pazzo che ovviamente ci deve far tenere molto in allarme, oppure il frutto anche di un'esasperazione che un po' si coglie anche stando a Roma, perché anche a Roma sta lei? Ma è un po' un mix, purtroppo. Chiaramente le tensioni sociali che ci sono, che sono dovute in buona parte dalla incapacità negli ultimi tempi della politica di dare risposte soprattutto sul mondo del lavoro, ma anche da comunque una crisi economica che va oltre le scelte della politica, se non altro quelle della politica italiana. Se a questo però si aggiunge effettivamente, senza creare un rapporto diretto di causa-effetto, che comunque c'è stato negli ultimi tempi un clima d'odio nei confronti della politica sempre crescente, non funzionale a un cambiamento, ma funzionale semplicemente a degli slogan, il tutti a casa, senza poi però dire effettivamente quale sarebbe l'alternativa del tutti a casa, quale sarebbe l'alternativa di una gestione della cosa pubblica. È chiaro che si porta la gente a pensare che, tolti i politici di mezzo, tutti i problemi sono risolti. Quindi anche qui io non arrivo a dire colpa direttamente, però negare che prima di tutto questa persona qui non è un disperato, è un potenziale assassino, perché se vogliamo affrontare i problemi bisogna dire le cose come stanno. Sì, certo. Prima di tutto un potenziale assassino. Ha sparato per uccidere, ha sparato per uccidere, quindi prima è un assassino, potenziale o meno, ma è un assassino. In seconda battuta, cioè, forse qualcuno si dimentica che lo stesso Grillo, che in qualche modo con un'escusatio non petita se ne è uscito dicendo noi non siamo violenti, il 2 febbraio del 2013, quindi neanche tre mesi fa, in piazza Bologna aveva invitato Al Qaeda a bombardare Roma. Era uno scherzo, non era uno scherzo, non lo so, però era una delle uscite alla grida. Ma adesso ma lei, però, lei dice però, è un po' frutto di questo clima. Vede che però un po' come il titolo del giornale lei un pochino lo capisce, magari non... No, io lo capisco, non lo condivido fino in fondo, perché non è che si può spostare la colpa solo su una persona o sull'altra, è diffusa, le responsabilità sono assolutamente diffuse, però se vogliamo effettivamente affrontare i problemi, e ho apprezzato, lo dico chiaramente, anche l'analisi della collega Moretti, bisogna dire le cose come stanno, cioè bisogna calmare un attimo le acque. Calmare un attimo le acque. Lei, onorevole Moretti, lo capisce un po' il titolo del giornale, cioè dire, non, per carità, non si vuole dare colpa a nessuno, ma questo clima anche verbale degli ultimi mesi può avere armato la mano di una persona instabile? Ma guardi, è evidente che le strumentalizzazioni sono sbagliate, quindi accusare Grillo per l'episodio di Roma è sbagliato, però è anche vero che la politica deve assolutamente moderare i toni e Grillo è stato uno di quelli che negli ultimi mesi ha usato un linguaggio molto violento, ha esasperato effettivamente i cittadini e quindi io penso che anche lui debba farsi una è una questione anche di coscienza per chi evidentemente diventa un punto di riferimento per milioni di persone. Questo sì. Tra l'altro poi noi avremo, credo, alle 8.45 Fiorenza Sarzanini, inviata del Corriere della Sera, ci racconterà anche le ultime che già ha raccontato sul Corriere di questo attentato. Però in tutto questo la politica per un attimo è passata in secondo piano, almeno il concetto del giuramento e poi della fiducia. Intanto una domanda molto chiara per Gianluca Pini. La Lega che fa? Oggi votate la fiducia oppure avete già un'idea chiara oppure no? Perché alcune dichiarazioni, soprattutto del ministro, la neo ministra Chiange, c'è stato anche un giallo su come si pronunci, non vi sono piaciute. E perché non vi sono piaciute? Ma non ci sono piaciute, non ci sono piaciute non solo quelle dichiarazioni di ieri, ma degli ultimi tempi della neo ministro, che è responsabile, mi sembra, del PD relativamente all'immigrazione, perché ha una visione di gestione dell'intera questione, diciamo, delle politiche migratorie, che è diametralmente opposta a quella che vediamo noi. Intanto chiariamo subito una cosa, anche lì magari ma sulla questione della politica ci può stare, però chiariamo una cosa, Pini, voi avete una pregiudiziale anche sul fatto che sia originario del Congo, ma è cittadino italiano? Assolutamente no, guardi. Noi abbiamo sindaci in Lombardia, abbiamo sindaci di colore, vice sindaci di colore, assessori, persone che sono in Lega da 20 anni, che giustamente hanno fatto notare nelle scorse ore, dopo che sono montate anche queste polemiche di cui proprio non se ne sentiva il bisogno, che hanno fatto notare che per l'integrazione qualsiasi persona va da un paese ad un altro e inizialmente perlomeno si trova ospite, l'integrazione deve essere un punto di riferimento della persona, non c'è bisogno di istituire un ministero, a parte che con tutte le richieste di tagli ai costi della politica istituire un ennesimo ministero mi sembra un po' così una roba fuori luogo, ma detto ciò non ci dovrebbe essere bisogno di un ministero all'integrazione, perché dovrebbe essere nella testa di ciascuno, di ciascuna di queste persone che vengono in un paese Vabbè, ma intanto un ministero senza portafogli, quindi un ministero senza portafoglio, certo che avrà capo di gabinetto, segreteria, mettiamo che qualche milioncino di euro ci costerà, vabbè, anche in viaggi magari per fare questi ponti con l'Africa o con chissà cosa. Ho capito, ma cosa c'è di male? Ormai sti cinema li conosciamo. No, c'è di male che far passare, come qualcuno ha cercato di far passare, lasciandoci poi un attimino anche il muso, vedi Bersani, che l'emergenza in questo paese sia dare la cittadinanza ai figli degli immigrati che nascono in Italia, no, noi diciamo che l'emergenza vera in questo paese è il lavoro. Sì, no, ma questo sì, non è che è il primo punto, però sicuramente... La neo ministra ha detto che è una priorità. Beh, per il suo ministero sì, per il suo lavoro sicuramente sarà una priorità. Comunque vuole lo ius, sì, certo, vuole lo ius soli, cioè chi nasce in Italia da figli di stranieri acquisisce la cittadinanza italiana nel momento in cui nasce. Onorevole Moretti, lei che è del PD, le ha capite queste, queste accuse della Lega, queste opposizioni della Lega al neoministro Chiangi? Ma guardi, no, non le ho capite, anche perché credo che non sia la nostra in generale priorità, nel senso per l'Italia è evidente che ci sono altre priorità, però noi abbiamo sempre detto che ci sono delle misure che non costano e che quello di riconoscere ai bambini nati in Italia la cittadinanza italiana rappresenta una manifestazione di civiltà di un paese. Penso quindi che la neoministro saprà fare bene il suo lavoro, ce n'è di bisogno perché in realtà un paese come l'Italia che accoglie centinaia di migliaia di immigrati deve anche munirsi e dotarsi di misure e di strutture per favorire l'integrazione, che io sono convinta che gli immigrati abbiano certo nella loro testa la voglia di integrarsi, magari non tutti, bisognerà aiutarli ecco, in questo percorso, ma penso che ai bambini che nascono in questo paese non possa essere negata certamente la cittadinanza. Poi, no, però in questo vorrei capire per un attimo da Pini se la fiducia la votate oppure no. Pini, cioè questa è una pregiudiziale che può contare oggi sul voto di fiducia? Pini, non c'è più. La pregiudiziale riguarda, riguarda questioni relative appunto a temi economici fondamentali che sono il trattenimento delle tasse sul territorio, l'adozione del federalismo fiscale che aveva votato anche come delega in termini di principio anche la sinistra, poi sostenendo Monti se l'è completamente dimenticata, l'ha messo in un cassetto. La costituzione di macro regioni, quella del nord, quella del centro, cioè su cui, quindi perché, voi aspettate di capire Letta cosa dice su questo, insomma. Sì, ma ormai non avete ancora voglio deciso. Dire per come no noi abbiamo deciso perché cioè, salvo e ce lo dica no. No votate no, cioè votate contrario salvo sorprese, cioè da quello che si evince, anche perché un minimo bisogna saper leggere fra le righe, da quello che si evince anche come formazione del governo, come dichiarazioni generali, poi purtroppo quello che è successo ieri a questi due carabinieri ha fatto scivolare giustamente in secondo piano diciamo la definizione di quelli che saranno i punti politici fondamentali di questo governo, però da quello che si capisce finora, quello che noi abbiamo chiesto sono questioni dirimenti. Per poter sostenere questo governo non avete risposto, non avete traccia risposto. Anche perché torna a ripetere, non per rimanere sempre lì ma per sintetizzare, se uno chiede che ci sia un ministero ad hoc per quello che riguarda il federalismo, le questioni territoriali o del genere, e con tutta risposta questo ministero di fatto viene spacchettato per l'ennesima volta fra riforme, coesione territoriale, affari e vi mettono poi e vi mettono quello dell'integrazione. Allora che sia abbastanza ci provocate. No, ma non è una provocazione, guarda, secondo me è un calcolo politico. Di dire li costringo a stare all'opposizione perché comunque sia, bene o male, la Lega è un movimento politico che dopo 20 anni ha creato una classe dirigente capace fare opposizione rigida, voi ma le risposte, anche di saper dialogare. Ma è chiaro, le risposte per il momento non le avete, a meno di sorprese, cioè Letta oggi si presenta e fa delle aperture clamorose sul federalismo, sulle macro regioni, sui soldi da lasciare al nord, all'85%, 75%, se no votate no. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:35 minuti, 800 24 00 24, con noi ci sono Alessandra Moretti del PD e Gianluca Pini della Lega. Vorrei sentire anche qualche ascoltatore. Stefania da Genova, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho ascoltato con attenzione quello che è stato detto dai due politici presenti. Però, ecco, mi viene da fare una considerazione su quanto detto, che si fa presto a liquidare un fatto così grave dicendo che questa persona era instabile e che Grillo è quello che commenta o che comunque ha favorito. Beh, non sono due cose. Che fosse instabile è abbastanza. Per carità di Dio. Uno che fa un gesto del genere sicuramente non è proprio in sé. L'accostamento Beppe Grillo non è così evidente. Sì, però io non è che liquiderei il fatto dicendo che una persona instabile è arrivata a fare una cosa di questo genere qua, no? Perché credo che comunque che questa situazione che si è esplosa sia soltanto un segnale di un disagio, di un malcontento che sta crescendo. facendo. Ma Stefania, ma questo sì, ma lei si ricorda che due mesi fa, tre mesi fa, non so, un signore è entrato nella regione Umbria e ha ammazzato due funzionari? Cioè, non è il primo segnale, purtroppo, Allora, io lo sottovaluterei, io non liquiderei. Ma nessuno lo sottovaluta. Dicendo, è una persona instabile, io andrei a fondo alle discrepanze, ai problemi che ci sono all'interno della nostra classe politica che sono stati messi in evidenza dal comportamento di Grillo. Cioè, per me Grillo ha soltanto con il suo comportamento fatto emergere la disunione che c'è tra questi. Quindi a lei dà fastidio il fatto che adesso si additi a Grillo come il responsabile di aver alzato i toni? Anzi. Mi sembra, no, a me non dà fastidio, mi sembra che la questione sia liquidata con estrema leggerezza. Attenzione! Stefania, però leggerezza non c'è da parte di nessuno, nessuno sottovaluta la gravità di questa cosa, su questo sia tranquilla, ma è anche abbastanza evidente dalla lettura dei quotidiani e dai primi commenti. Intanto la ringrazio, vorrei andare da Luca, la provincia di Monza Brianza, che tutte le volte quando la leggo dico quando scomparirai, tutti una volta l'ho detto, mi hanno assaltato tutti. E allora lei quando scomparirà? Perché mi fa un po' ridere. Io poi sono di Sesto San Giovanni, quindi c'è una simpatica rivalità. Luca, dica. Bene, l'ha detto meglio di me. Buongiorno Milan, complimenti a lei personalmente e ai suoi collaboratori che l'aiutano a fare la trasmissione. Dica. L'ha detto meglio di me. La ridicoligine di questa nazione sta proprio in quello che ha detto lei, no? Lì il rappresentante della Lega si sono battuti per la Monza Brianza, poi la vogliono togliere, poi la vogliono rimettere, e qui non cambia mai niente. Togli, metti, non cambia mai niente. Ora, massimo sostegno alle persone ferite, ma io le dico la verità. Quando io vengo rapinato una volta, due, tre, poi io mi difendo, io sono una persona stabilissima, guardi, non c'è problema, ho chiuso nel 2010 grazie alla politica. Voi dite sempre, voi dite sempre gli imprenditori si sono suicidati, sono stati portati al suicidio, sono stati portati perché io... Sì, però Luca, guardi che a me spaventa un po' quando lei dice vengo rapinato e mi difendo, cosa vuol dire con questo? Ma cosa vuol dire con questo? Mi permetta di dire una cosa, io ho dovuto chiudere con il lavoro. La prassi è quella, no? Si licenziano gli operai, si tenta di andare avanti in due, in tre, in quattro, si riduce. Alla fine non puoi più stabilire quanto devi guadagnare, quanto non devi guadagnare, e ti rendi conto che chiudi, vai a lavorare, è un mondo peggiore ancora. Perché cosa c'è? Ci sono queste cooperative, ci sono questi stipendi fasulli, c'è questo qua, e nessuno ti sostiene. Ogni giorno tu ti alzi e ti devi reinventare la vita, che questi signori, ecco come la percepisco io, le faccio una premessa. Io fino a... Sì, ma ho capito Luca, ma io... Mi scusi Luca, prego. Io ho capito tutto, però è quello che mi spaventava, la sua premessa, dire mi sento rapinato e quindi mi difendo, cioè perché questo è un... Ecco. Attenzione, rischia di giustificare quello che è successo ieri. Ma io lo sto giustificando, non ma come lo sta qualcosa di grave. Ma chi lo sta giustificando? Ma mi scusi Luca, io ho bisogno di difendermi, sento il bisogno difendersi in che senso? Prendere una pistola e sparare? Ma Luca, io non posso dirlo perché lei lo sa che incorrerei in quello che... Ma io, per amor di Dio, glielo dico così, no, io ho bisogno di difendermi, perché torno a ripetere, e smettete di dire che Grillo è violento, perché chi lo dice non ha mai assistito dibattito. Luca, però guardi, io non lei come sa i microfoni qui sono aperti, c'è voce per tutti eccetera, però andare a giustificare, a dire bisogna difendersi, onorevole Moretti, ha capito insomma qual è un po' il clima. Le voglio sottoporre anche quello che ha postato ieri il rappresentante del Movimento 5 Stelle del Consiglio Comunale di Torino, è stato il candidato sindaco Vittorio Bertola, che ieri ha scritto su Facebook: il vero problema non è che qualcuno abbia sparato a Palazzo Chigi, il vero problema è che sono assolutamente certo ci sono alcuni milioni di italiani che pensano peccato che non abbia fatto secco almeno un ministro. Onorevole Moretti. Secondo me chi rappresenta le istituzioni, anche se proviene da un movimento di protesta come quello dei 5 Stelle, deve difenderle le istituzioni, e lo deve fare anche utilizzando un linguaggio adeguato e cercando soprattutto di calmare gli animi e non fomentarli, perché in questo momento non c'è certamente bisogno di andare dalla gente, dai cittadini, e alimentare dell'odio che c'è già peraltro. Noi come classe dirigente dobbiamo dare risposte, questo dobbiamo fare, e io credo che questo governo appena nato abbia un compito molto, molto difficile e un Parlamento così giovane e rinnovato, dico io, forse può essere un motivo di cambio di passo. Ecco, di poter dare quelle risposte che Luca dice esigo dai politici, altrimenti. Ma secondo me dal punto di vista dello sviluppo economico, della crisi dell'impresa, dell'accesso al credito, del tema quindi anche della burocrazia di questo paese, sì, che non aiuta, che non agevola, noi dobbiamo fare tantissimo. Penso proprio di sì. Però è anche vero che dire mi arrangio da me e mi faccio giustizia da solo. No, ma questo è sbagliatissimo. Io posso capire che magari è lo sfogo, ma lo so che Luca non farà mai questo gesto. E prima di andare un attimo all'onorevole Pini, le chiedo questo, onorevole Moretti: se qualcuno del PD oggi non votasse la fiducia, secondo lei va fuori dal partito? No, guardi, io credo che io non sono per le minacce di espulsione e di epurazioni, credo che non facciano parte della nostra cultura. Credo che tutti, anche chi non la pensa come diciamo la maggioranza, debba essere rispettato e debba trovare accoglienza magari in minoranza all'interno di un grande partito quale il Partito Democratico. Espulsione. Guardi, se posso dire, sarebbe meglio cacciare i franchi tiratori che hanno tradito Prodi, ma quelli sono segreti che quelli, no, che manifestano un dissenso. Io credo che noi voteremo credo quasi compatti la fiducia, non penso che ci siano defezioni da questo punto di vista. Certamente saremo critici e vigileremo, perché questo non è di certo il governo di cambiamento, no, per il quale abbiamo fatto per il governo di cambiamento che i nostri elettori soprattutto si aspettavano. Quella è un'altra storia, perché non siete riusciti a farlo. Onorevole Pini, le chiedo questo: vuole entrare anche lei nel discorso dell'ascolto che ci porta un po' in passo indietro, ma per capire il clima che c'è, cioè l'ascoltatore che dice oh, qua io mi devo difendere perché questi identificando la classe politica, ma rubano, al terzo furto io sono capace anche di reagire. Onorevole Pini, eccoci. Sì, ecco, adesso lo sento. Ho perso gli ultimi 10 secondi. No, dicevo, vuole entrare anche sull'ascoltatore che dice, ha sentito. No, guardi, cioè stupidaggine, ripeto, l'abbiamo detto prima, adesso è proprio il momento, con quello che è successo di violento, di grave ieri, di cercare di non enfatizzare gli idioti, quindi anche solo con dichiarazioni. Dice passiamo oltre. Sì. Non abbassiamo la guardia, anche in termini di impegno da parte della politica, sia che sia di maggioranza che di opposizione, per trovare il modo effettivamente di ridare un minimo di calma sociale, e lo si può fare solo attraverso la ripresa, il lavoro, la risoluzione di problemi che sono stati creati fra l'altro l'ultimo anno, gli esodati e compagnia cantante. Però ecco, cerchiamo di focalizzarci più sulle cose da fare. Per esempio l'IMU, per esempio le chiedo, l'IMU per voi è una cosa importante e dirimente come per il Popolo della Libertà? Ma noi non facciamo parte della maggioranza, diciamo che se ci fossero i soldi, se si trovassero i fondi necessari, dopo aver trovato i fondi, come le dicevo, per la cassa integrazione in deroga, dopo aver trovato i fondi per magari ridurre l'IRAP, che sarebbe quello sì un volano per fare per un minimo l'economia, dopo aver trovato i fondi per gli esodati, dopo aver trovato i fondi per il mondo del lavoro, se ci sono va benissimo. Io capisco che Berlusconi abbia in qualche modo posto in essere fin dalla campagna elettorale una sua promessa personale, quasi mettendo, mi sembra, quasi il suo patrimonio a disposizione nel caso non l'avesse mantenuta, e quindi per lui diventa, per lui e per il PDL diventa una questione politica dirimente. Però non so la media di quello che potrebbe essere la restituzione, l'eventuale restituzione 2012 dell'IMU, ma mi sembra che sia proprio sopra i 100 euro. Sì, 120 euro a famiglia, di media, sì, non si risolvono i problemi dell'Italia così. Eccoci qua alle 8:47 minuti, vorrei sentire Marco da Torino. Pronto? Sì, Marco. Buongiorno Milan. Volevo intervenire alla sua trasmissione per dire che francamente l'ipocrisia dei suoi due ospiti è a dir poco urticante. Addirittura. Addirittura sì, e le spiego anche sì. Perché, se mi ha permesso. Innanzitutto il deputato Moretti fa riferimento alla necessità oggigiorno di usare un linguaggio istituzionale che sia rispettoso delle istituzioni e quant'altro. Ricordo che il capo del partito di cui oggi sta facendo da zerbino, cioè Berlusconi, prima della campagna elettorale addirittura ha detto che la magistratura è peggio che la mafia. Però quindi, la Moretti dice è del PD, Sì, sì, appunto. Però dice però appoggia un governo in cui c'è anche Berlusconi. Appoggiare è una parola grossa, diciamo sì, che ci fa veramente sì. Tutto il necessario. Per quanto riguarda il deputato Pini, io in riferimento agli episodi di Grillo, il grilletto, il titolo del giornale di questa mattina, francamente io, magari a differenza sua, ho la memoria un po' più lunga, però mi ricordo che Bossi, proprio qui a Torino, almeno nel periodo in cui si capiva quello che diceva, parlava del fatto che la vita di un magistrato vale meno di una pallottola, si parlava di Oliare Kalashnikov. Sì, cioè, non prenda in giro anche lei però la malattia di Bossi, perché così mi scade. No, ma visto che era lui era un suo ragionamento che ci poteva stare, però il prendere in giro la malattia di Bossi. Milan, cioè, Bossi, francamente, quando c'era da attaccare sui difetti fisici dei suoi avversari politici, non è che ci andasse molto bene. Ma lei non scenda allo stesso livello? Cioè, sennò... No, ma mi sarebbe comunque impossibile, non ce la farei con tutto il mio impegno. Vabbè. Quindi insomma lei dice c'è l'ipocrisia, vabbè adesso però mi costringe a dire Moretti vuol replicare, Pini vuol replicare, non lo so, Pini, Bossi parlava dei proiettili per il magistrato anni fa, e Moretti viene accusato di essere, niente, di questo inciuccio Moretti non ve lo toglierete mai, questa storia dell'inciuccione. Intanto le parole dette contro la magistratura e soprattutto le manifestazioni fatte contro la magistratura, noi le abbiamo sempre condannate e continueremo a condannarle anche oggi. E quindi voglio dire, il mio atteggiamento non cambia nei confronti di chi appunto fa manifestazioni avversive contro un'istituzione qual è la magistratura. E devo dire che è vero, c'è stato un linguaggio che ha violento, che ha coinvolto molti esponenti di rilievo dei partiti politici, però io continuerò ad avere il mio atteggiamento e a difendere non solo la sobrietà della politica, ma avere un linguaggio che sia consono, perché altrimenti vado a fare un altro mestiere. Senta, però onorevole Moretti, sai che c'è un rumor, cioè, mi è arrivata all'orecchio questa ipotesi. Silvio Berlusconi appoggia molto questo governo tenendo a bada anche i falchi, perché ha avuto una sorta di promessa di diventare senatore a vita e potrebbe diventarlo anche con Prodi. Lei Berlusconi senatore a vita come lo vede? Ma guardi, io non credo che ci sia un accordo di questo tipo, nel senso che non sono al governo, né tantomeno non ho assistito alle trattative per la composizione di questo governo e quindi perché così si metterebbe a posto, no? Capisce, senatore a vita, basta. Un posto per garantirsi un salvacondotto a livello giudiziario non credo proprio che sia nelle corde del Partito Democratico. Questo sì. Gianluca Pini è caduta un po' la linea, l'abbiamo recuperata. Ha sentito l'ascoltatore che ricordava Bossi, le pallottole per il magistrato? L'ho sentito un po'. Sì, però effettivamente anche voi della Lega non è che adesso potete andare contro chi ha i toni forti. Milan mi permetta, se andando avanti nella vita non si impara mai dagli errori, chiaramente. Quello lì era un momento politico diverso, quelle cose lì adesso la Lega non le direbbe mai. Non le direbbe mai. Lei invece Berlusconi senatore a vita come la vedrebbe? Ma secondo lei Berlusconi ha ancora questa idea di volersi salvare dai processi? È un po' il suo pensiero appena si sveglia al mattino, Pini? Non lo so, non lo conosco a tal punto... Di sapere che cosa ha in testa. Ho sentito parlare, ma più che altro ho letto, diciamo così, dai giornali questa retroscena. Mi sembra un po' inverosimile, anche perché anche con una nomina da senatore a vita non è che i processi poi si fermano. No, beh, certo, però. Non riesco a capire la funzionalità alla fin fine. Cioè, da un punto di vista politico si inaspirerebbero ancora di più gli animi, sia da una parte che dall'altra, perché si parlava di Berlusconi e si parlava di Prodi. Dal punto di vista funzionale, se dovesse essere quello nella testa di non so chi l'obiettivo, non riesco a capire poi come sarebbe colto in qualche modo, perché la nomina di senatore a vita, così come l'elezione a senatore deputato, non è che mette a riparo dalla possibilità di condanne in sede definitiva. Vabbè, sa quanti possibili legittimi impedimenti ci possono essere? Legittimo impedimento, attenzione, legittimo impedimento è prevalentemente per ruoli di governo, ruoli di semplice deputato, senatore, anche se senatore a vita, la vedo molto difficile che possa essere accolta poi da un giudice, non lo so, ma questo può essere materia, però mi sembra siamo andati un po' avanti, chissà se succederà, chissà invece se rimarrà un rumor. Onorevole Moretti, dal punto di vista politico, secondo lei la tenuta del governo Letta è una tenuta che regge? Perché lei stessa ha detto è un governo che insomma mi piace a metà, ecco, è un governo di necessità, perché si parla di molti malcontenti all'interno sia del PD sia del PDL, di persone che non che insomma vedo come un governo un po' di serie B, con tutto il rispetto anche per le personalità messe lì. Sì, diciamo che i nostri elettori e quindi la sofferenza che abbiamo vissuto anche noi in questi giorni, in queste settimane è forte, perché non siamo riusciti a dare quello che le persone che ci hanno votato si aspettavano da noi, ma anzi abbiamo sempre detto che eravamo contro ogni ipotesi di governissimo e oggi dobbiamo invece digerire. E quindi quanto durerà? E quindi guardi, io non so che durata abbia la legislatura, mi auguro solo che abbia una durata utile affinché noi nei territori possiamo ricostruire con i nostri circoli e con la nostra gente un rapporto fiduciario, perché in questo momento c'è effettivamente un grande scoramento, grandi mal di pancia, e che possiamo curare esclusivamente se riusciremo attraverso questo governo a imporre la nostra linea, sì, quantomeno fare in modo che sia prevalente rispetto a quella, alla linea che abbiamo combattuto fino all'altro giorno. No, chiaro, anche perché se si andasse a votare adesso, traduco io, sarebbe una salassata veramente per il Partito Democratico. In ogni caso vi ringrazio. Oggi alle 15 Enrico Letta parla alla Camera, ci sarà la prima fiducia, domani per presumibilmente al Senato, e che dire, vedremo come andrà a finire. Grazie Alessandra Moretti, grazie Gianluca Pini, l'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6.30. Scopri il Nord Europa di Costa Crociere, un'estate fra i fiordi norvegesi o le capitali baltiche. Vi ha presentato 24 mattino.